Al via dunque le vacanze estive, cuore di un anno record per il turismo. Secondo le previsioni di Confcommercio non mancano però i rincari, come ci spiega Giovanni Nicoletti. I numeri per il settore turistico nei tre mesi estivi si avviano ad essere i migliori di sempre, con 20 milioni di italiani secondo Confcommercio pronti a partire per le vacanze. 1.190 euro a testa il budget a disposizione per quest'anno, il 10% in più rispetto al 2023. Un italiano su quattro sceglie ancora il mare, soprattutto per i soggiorni più lunghi, ma anche la montagna tornerà a richiamare molti appassionati, superando di poco sia le città d'arte che i piccoli borghi. Mai come quest'anno, sottolinea Confcommercio, il settore turistico potrà contribuire alla crescita che ancora manca alla nostra economia. Le sorti di questo 2024, che si concluderà con una manovra di bilancio complicata, dipendono dalla tenuta dell'occupazione, dalla riduzione dell'inflazione e dalla prevista crescita del turismo in tutte le sue forme. Si viaggia con più soldi messi da parte proprio per concedersi un periodo di relax, ma è un tesoretto messo a dura prova da una raffica di aumenti, con punte del 20% per un pacchetto vacanze, rileva il Codacons. Tra i rincari più consistenti, quello dei voli nazionali, più 24%, ma anche dei servizi balneari, alberghi e ristoranti. Così molti cercano di risparmiare, spiega Federconsumatori, riducendo i giorni di vacanza e cercando ospitalità da parenti e amici.